Ehi, ehi, venti il mio quartiere. La vecchia generazione governa questa nazione, il suo padrone ha decisione su tutte le vie che c'hai. Vieta l'integrazione delle singole persone senza andarsene in pensione, d'attenzione a chi c'ha guai. Già lo sai, una nazione che è persa tra mille rughe di vecchi presidenti lenti come tartarughe, di tanti dirigenti millenari sanguisughe che ci rubano i contanti dalle tasche delle braghe. Gestiscono milioni, molto più dei casinò, e sono vecchi in bianco e nero come i film di Totò. Però a bassa qualità non danno opportunità, la sapienza non è età, perché vive nelle idee. Lei ti dà una dignità, può cambiare la realtà, può smuovere città come la luna mare. La nuova gioventù è perenne schiavitù, è mastica drastica crisi come nel Perù. E in più qui comanda solamente chi ha 80 anni, tra lifting e limus si ricoprono alti panni, lasciandoci a noi ebeti e debiti ai nostri figli, che porteranno a vita dolenti come dei tagli. Non c'è lavoro al sud, non c'è lavoro al nord, qua la situazione è dappertutto ad est e arci. Comandano dei vecchi parruccati come il fard, per me sono inutili come la social card. Quando domo la giovane mi ammazza rinto sonno. Non c'ancio per nascere un brocchio, non cancia se rupa sciocchio. Mi arrangio per sopra forza e saccio solo che mi pongo. Ci penso tutto io nel nome scotto di gusta assurda. Last mi ricordo che voglio dire che a me buca. Un foglio, una pena che ci rega e che mi assida. Un ciao di coldo che se mi da sanno un cate sta mi buca. Non apro perché non mi piglio un po' culo. Settantenne a mia ventenne, mi parlo nei futuri. Tenentenne ma solo con qualcuno tantenne. Sogno sicuro se te ferre sti giuri puro da fenni. Tentenne film assegne, stacio indegni, se ne fortuni mia, se ne fortuni tia. Vonno cute, vonno tutto in tre parole che peggia. Ma gira pote fria, io vorrei fare sciasciare come i bambi, yeah. A soluzione stanta all'omene figliole. Non t'avvecchia che hanno un uomo milione, fame e pensione. Che succione si uscione, vonno sta devolution. Il mazzeria con gusto, io hanno da liberazione. Cerca di un lavoro, noi giovani mammoni, questo mondo da precario, ci rubano il salario a forza di cazzate e tasse. In questo schifo di paese pieno di promesse sparse, ci fa la predica a quei vecchi sul palazzo Chigi. Nella loro mente un cazzo, solo pezzi di remigi, tirandosela un botto per aver creato la repubblica malmessa, frutto di un colpo di stato. Seduti a un tavolo decidono il destino, da giovane studente alla sorte di quel clandestino. Mentre da basso a volte protestiamo, come risultato il poliziotto con il manganello in mano, manette borsi per aver rullato titoli agli onorevoli che di continuo hanno rubato, hanno incassato le mazzette, fatto la gente a fette con dei discorsi inutili in mezzo a tante piazze. Ma dimmi quando le cose cambieranno, dimmi quanto ne faremo per assumere il comando contro la carestia della democrazia. Avanti popolo alla riscossa contro questa tirannia.